Ulea partiu senza una palanca. Lea sa 30 anni, forse anche ci. Ula vei valutò per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto per dare una schena seia e mattina. Ma o figlio che diceva, non che pensa, a Zena, cosa ti che vuoi tornare? Ma se che penso a lua, mi vedo mai. Vedo i miei monti e a casa d'annunzia. Rivedo righi e messe strenze che vedo a lanterna a cava l'asume. Rivedo a seia Zena illuminare. Vedo la fuge e sento franze umà. A lua mi penso ancun de ritorna. A pose osse dove a me maduna. E lei passò du tempo, forse troppo. O figlio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vei andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te i vejo, non conven. Oh no, me sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio ci. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in su. Ti, te nascio e te parlo spagnolo. Mi sono nascio senese e non me mollo. Ma se che penso a lua mi vedo mai. Vedo i miei monti a casa d'annunzia. Rivedo righi e messe strenze o che. Vedo a lanterna a cava l'asume. Rivedo a seia Zena illumina. Vedo la fuge e sento franze umà. A lua mi penso ancun de ritorna. A pose osse dove a me maduna.